Olimpia, miti e verità dello sport di Dario Ricci. Dei limiti e dei problemi che delle volte possono essere superati non tanto a livello tecnico ma a livello proprio psicologico, educativo. Quello che noi cerchiamo di trasmettere ai ragazzi, oltre alle competenze tecniche, sono appunto delle lezioni di vita, tra virgolette, che poi possono spendere al di fuori. Numerose sono le nazionali, le più blasonate sono il Brasile, c'è anche la partecipazione del Sudafrica, molto forte è la squadra di casa, il Portogallo. Diciamo che ce la giochiamo con il Portogallo, con i padroni di casa, ecco. Edoardo Scopigno è bello carico. I suoi ragazzi, la nazionale azzurra, vola a Viseu, in Portogallo, per giocarsi i mondiali, i campionati del mondo, di calcio a 5, col sogno di sollevarla al cielo quella coppa, come nel 2006 Capitan Cannavaro fece nel cielo stellato di Berlino. Mondiali speciali però, come davvero speciali, sono questi calciatori. Perché quella guidata da Scopigno e da altri tecnici è la nazionale italiana di ragazzi con la sindrome di Down. Attraverso il pallone, ci ricorda Scopigno, allenatore anche della insuperabile Reset Academy, che già da tempo promuove lo sport tra i diversamente abili, i ragazzi provano a dribblare gli ostacoli di ogni giorno. Portogallo, Messico, Sudafrica e Brasile, le altre rappresentative con cui ci giocheremo la Coppa. Ma il vero gol questi ragazzi lo hanno già siglato, in un viaggio nel mondo del pallone che diventa esperienza e scuola di vita. Ma da dove parte questo viaggio tra pallone e vita, intorno a una sfera di cuoio che unisce genitori, figli, educatori, allenatori, in un percorso di crescita e riscatto compreso tra due aree di rigore? Siamo andati a scoprirlo in un campo di periferia a Milano, quartiere Corsico, dove si allenano proprio gli insuperabili. Entrano in campo alla spicciolata dopo il saluto di rito i giocatori. Il sole è tiepido come già in primavera inoltrata e il caldo sotto il tendone dello Sport Time di Corsico si fa sentire. Ma ci vuole altro per far evaporare la loro voglia di calcio, come ci spiega Davide Leonardi, presidente e cofondatore degli Insuperabili. Sono molto caldi e motivati, sono degli insuperabili, in sostanza sono dei ragazzi che amano giocare a calcio come la maggior parte dei coetanei italiani e sono dei ragazzi disabili, con qualsiasi tipologia di disabilità, quindi da una disabilità fisico-motoria fino ad arrivare a una disabilità mentale e relazionale. Tutto quello che però li accomuna è in effetti l'amore e la passione per il gioco del calcio. Davide lavorava in banca e collaborava con un grande club di Serie A. Poi, 5 anni fa, il piccolo episodio che ha dato il via a questa grande svolta. La nascita è casuale, come accade per molti progetti. Stavamo cercando delle informazioni per trovare una squadra di calcio che potesse accogliere una nostra amica, la cognata del direttore sportivo di tutta la nostra realtà, che è una ragazza con sindrome di Down. Avevamo trovato 5 anni fa pochissime informazioni in merito e al che decidemmo di iniziare a copiare, prendere spunto da alcuni modelli stranieri, tra cui un modello inglese e un modello russo, e di cercare di importare in Italia questa metodologia di insegnamento, che non prevede niente di diverso che insegnare in una maniera professionale il calcio ad atleti disabili, ovviamente con delle accuratezze maggiori portate appunto dalla loro disabilità. Passione per il calcio, certo, ma da sola quella non basterebbe, o meglio basterebbe forse per fare solidarietà. Più difficile invece fare scuola, percorso, progetto, spesso individuale, da qui la costituzione di un gruppo di lavoro professionale e dedicato. Tutte le nostre equip di lavoro sono delle equip multiprofessionali, quindi si parte dal tecnico sportivo, quindi dal vero e proprio insegnante di calcio qualificato, passando per lo psicologo, l'educatore, laddove serve tutto un percorso di fisioterapia con dei fisioterapisti o di logopedia. E l'obiettivo è quello di riuscire a portare ogni singolo ragazzo ha la sua massima potenzialità, quindi se il ragazzo ha delle potenzialità che gli permettono di arrivare, mi faccio dire, da 1 a 100 a 10, il nostro obiettivo è quello di portarli a 10. Chi ha delle capacità superiori, dove può arrivare magari a 60, il nostro obiettivo è quello di riuscire ad arrivare a 60, anche perché poi in questi 5 anni ci siamo accorti che laddove inizialmente magari noi abbiamo potuto immaginare un livello di 10, poi magari i ragazzi dopo un tot di tempo arrivano tranquillamente a 15 o anche a 20, quindi è il non porsi dal nostro lato di istruttori dei limiti nei confronti dei nostri ragazzi, perché è un po' quello che li porta a migliorare sempre di più. La preparazione individuale, nuovo mantra del calcio professionistico, viene declinata dagli insuperabili in chiave educativa e formativa. Sì, tutti noi partiamo dalla creazione di dei micro obiettivi per ogni singolo ragazzo, per poi andare a lavorare nello specifico ad obiettivi, a macro obiettivi di squadra. Quindi si parte da un insegnamento tecnico fino ad arrivare agli apici dell'insegnamento calcistico. Tutto viene molto monitorato perché dobbiamo tenere sotto stretto osservazione e stretto controllo i miglioramenti dei ragazzi, anche perché poi dobbiamo andare a ricalibrare la tipologia degli allenamenti fatti per far sì che il loro apprendimento continua e sia sempre in evoluzione. Anche l'avere degli strumenti come la possibilità di videoregistrare gli allenamenti o comunque di avere strumenti di monitoraggio sia da un punto di vista tecnico che da un punto di vista psicoeducativo permette comunque un apprendimento più rapido rispetto all'improvvisazione. Metodi e sensibilità che all'estero sono già regola. Basti vedere le community dedicate di team inglesi come Chelsea, Fulham ed Everton. In Italia si arranca ancora. Impianti e scarsa professionalità i limiti principali, chiarisce Leonardi. Il calcio per disabili rispecchia un po' la criticità del calcio per normodotati, quindi uno dei punti dolenti dell'Italia sono appunto le strutture sportive nelle quali viene praticato lo sport. Sono antiche e quindi questo porta a dei rallentamenti di crescita, quindi da un nostro punto di vista il primo investimento sostanziale deve essere fatto proprio nelle infrastrutture. È un altro, il secondo concetto fondamentale dopo le infrastrutture è proprio la possibilità di avvalersi di professionisti che possano comunque insegnare in una maniera corretta una determinata materia. Gli argomenti da approfondire non sono certo finiti, ma il richiamo del campo e dei ragazzi che lo invocano è troppo forte per Davide. Il tutto nasce a Torino, io sono un tecnico di due squadre di Torino, una prima squadra e un gruppo di primi calci di bambini autistici, quindi su Torino sono costantemente in campo e poi tramite un'equipe di me e dei miei colleghi facciamo delle supervisioni in ogni academy, tendenzialmente seguiamo le academy in loco tra le 5 e le 6 volte all'anno e poi riusciamo a garantire un monitoraggio settimanale. Si scende in campo per insegnare, ma in realtà poi si scende anche in campo per piacere, perché alla fine un po' quello che ti porta dentro è l'entusiasmo del poter giocare a calcio e del poterlo insegnare, che poi alla fine è una delle cose più belle. E allora, qualche istante di pausa, poi anche noi entreremo in campo per giocare insieme agli insuperabili. Per il tuo vino scegli il meglio. Colombin, tappi in sughero, fidati di un esperto. Vi presenta... Olimpia, miti e verità dello sport. Ancora in campo qui allo Sport Time di Corsico per seguire l'allenamento degli insuperabili, dicevamo calcio, ma non solo, il calcio è il punto di partenza di un percorso di crescita e allora naturale quasi che gli atleti insuperabili vengano seguiti da un gruppo, da un'equipe, di cui fanno parte anche degli psicologi come Annalisa Cerrone, che è qui appunto a seguire l'allenamento. Beh, dottoressa Cerrone, qual è il vostro ruolo in particolare in questo percorso di crescita, di scoperta del calcio? Allora, di affiancare la parte del team tecnico e gli educatori in campo per supportare i singoli ragazzi nel loro percorso, quindi in base ad inizio anno si definiscono degli obiettivi che sono sia psicoeducativi che sportivi, tutto il team ipotizza insieme degli obiettivi e un percorso di lavoro per ogni ragazzo e il nostro contributo come psicologi è proprio un po' su questo, nella definizione degli obiettivi e nel monitoraggio di questi obiettivi, nella ricerca insieme all'altra parte del team di strategie per far sì che i ragazzi riescano a fare nel miglior dei modi l'allenamento, ecco, quindi diverse strategie e strumenti che possano facilitare l'allenamento dei ragazzi dal punto di vista di attenzione e concentrazione, ad esempio strategie più visive con immagini nel caso di ragazzi con autismo o altre strategie simili a quelle che usano negli altri contesti di vita come la scuola o i centri di riferimento, ecco. Quindi quello che vediamo qui in realtà è la somma, è la sintesi di tanti percorsi individuali che poi si fondono nella squadra. Sì, è proprio un po' l'idea di individuare degli obiettivi di lavoro su ogni singolo ragazzo e poi di lavorare sul singolo ragazzo nel gruppo, quindi abbinando i ragazzi per affinità di lavoro e per affinità di percorso e di obiettivi, ecco, di conseguenza, quindi sì, e di monitorarli nel corso dell'anno con diversi strumenti, utilizziamo delle schede di valutazione ad ogni allenamento che ci permettono di fermarci a riflettere sui cambiamenti di ogni ragazzo. E poi utilizziamo anche dei report nel caso delle partite e dei video che monitorano l'attività tra le varie scuole calcio. I ragazzi cercano il gol e vediamo molti già ne hanno segnati e altri arriveranno nel corso di questo allenamento. La vostra soddisfazione arriva da questi altri gol metaforici, ma sicuramente per alcuni aspetti non meno importanti. Ecco, di tante storie, di tante situazioni, qual è quella che magari le ha dato più soddisfazione e che le ha dato la percezione di aver raggiunto veramente l'obiettivo che inseguivate come gruppo di lavoro? Ma di ogni ragazzo quando si vede che ha fatto uno step di crescita, direttamente mi vengono in mente alcuni ragazzi del gruppo dei grandi di Torino che hanno fatto uno step nel loro percorso che magari ad inizio stagione non riuscivano a fare, ma uno step proprio anche rispetto alla capacità di stare in campo e alla modalità di stare in campo e al gioco nel campo che fa anche sì che acquisiscano sicurezza e quindi poi benessere nel momento in cui sono qua a fare attività. Insuperabili che hanno i loro mister d'eccezione, perché come abbiamo detto la qualità in campo è la prima cosa e il pallone diventa percorso di crescita e consapevolezza anche tecnica. E allora un mister davvero d'eccezione perché è una donna, Federica Laddaga, che col calcio femminile ad alto livello ha anche una certa esperienza, no Federica? Sì, diciamo che ho iniziato per scherzo quando avevo 5 anni, poi da lì è stato tutto un susseguirsi di successi, elogi eccetera eccetera e quindi poi a 14 anni ti chiama il Milan femminile, dice cosa faccio, non vado, sì vado e quindi da lì anche lì un crescendo. Poi, come ho detto, arrivata ai 26-27 ho deciso di ridurre un po' l'impegno e quindi mi sono avvicinata a casa, ho ridotto le dimensioni del campo, quindi sono passata al calcio a 5. Ma è un altro sport e quindi adesso lo faccio per diletto, mettiamola così. Sempre calcio è invece quello degli insuperabili, no? In cui il pallone diventa strumento di crescita e di dialogo, ma non per questo anche la parte tecnica viene meno. Ecco, come impostate il lavoro dal punto di vista tecnico o atletico così particolare? Partiamo dalle basi, quindi da una semplice conduzione che iniziano a fare camminando con il tiro, che è la cosa che poi dà più soddisfazione ai nostri ragazzi e poi via via andiamo poi sui fondamentali un po' più tecnici, quindi il dribbling, la marcatura, che sono quelli un po' più ardui. Poi io ho deciso di, cioè ho accettato questa sfida perché sono arrivata a un certo punto in cui non ricevevo più niente. Il percorso di studi che ho fatto, l'esperienza calcistica, mi ha portato ad un certo punto in cui ho capito che non ricevevo più, ma mi sentivo di dover dare, trasmettere quello che in realtà avevo imparato, avevo acquisito e mi avevano insegnato. E quindi quale sfida più bella di questa? E quindi ho accettato e con grande soddisfazione resto qui e mi impegno per loro. Calcio femminile cerca spesso di entrare sotto il grande ombrello del calcio degli uomini, no? Spesso si sente dire, le giocatrici chiedono che siano le grandi squadre a sviluppare una sezione femminile direttamente affiliata. Pensi che sarebbe questa anche un'ipotesi percorribile per il calcio degli insuperabili? Non sarebbe bello se le nostre big avessero una sezione dedicata anche agli atleti con diverse abilità? Credo assolutamente di sì, anche perché dico il problema, poi non è che è un problema, è che spesso non si conosce o non si conoscono certe realtà e quindi poi tutto un po' gira intorno ai numeri, che vogliamo o meno, la differenza la fanno il numero, quindi le persone che seguono, le persone che vengono a vedere, tutti coloro che per un motivo o per un altro si avvicinano alla realtà dell'insuperabile, quindi a questo progetto, rimangono entusiasti perché vedono i ragazzi e vedono che possono fare quello che fanno poi i normodotati, né più né meno, che fanno le stesse cose che fanno i normodotati con la differenza che c'è molto più entusiasmo rispetto alle categorie poi o al settore giovanile che tipicamente si trova in giro, diciamo così. Dopo il duro allenamento per gli insuperabili arriva finalmente il momento della partitella. È quello più atteso da tutti noi ogni volta che ci alleniamo a calcio, a calcetto, e gli insuperabili non vengono meno a questa regola e a questo desiderio. È il momento di divertirsi tutti insieme, di cercare il gol per una squadra che le sue reti più importanti sembra davvero averle già segnate, mettendo in campo questi ragazzi. E intanto, eccola, un'altra rete, un altro gol, un altro passaggio, un'altra esultanza. Ira! Con Giovanni e con Roberto, maglia blu degli insuperabili, direi bella partita. Giovanni, ti ho visto protagonista in porta, belle parate. Sì, ma adesso sono da poco in porta, prima ero un difensore attaccante e tutto, però adesso mi ha messo in porta e mo vediamo come va. Mi hanno segnato un po' alcune mosse, però vediamo se ce la faccio a farle bene. Invece Roberto ti ho visto scatenato sulla fascia, Sì, sì. Io sono molto in partita, gioco o sulla fascia o in attacco. E che ma è tanto, ormai sono tanti anni che vengo qua e mi piace, cioè, giocare, conoscere ragazzi nuovi, mister nuovi. Una bella sensazione di contentezza. Senti, Giovanni, bellissimo giocare tutti insieme così a calcio. Sembra che ci sia un bello spirito in squadra. Sì, sì, sì, dipende dai compagni che ci sono, oppure che ci sono anche altri che sono nuovi, però va bene anche con gli altri compagni. Senti, qua quando è l'esordio un campionato? So che insomma vi state preparando. Il campionato lo facciamo sabato, c'è il campionato. C'è il campionato sabato, vediamo come va. L'altra volta l'abbiamo fatto i campionati, una l'abbiamo perso e due l'abbiamo vinti, mi pare. La prima pareggiata, la seconda persa e la terza vinta. C'era uno che diava certe bombe atomiche, faceva paura. Adesso sabato facciamo la quarta, vediamo come va. Bene, allora dai, complimenti a tutti, in bocca al lupo per il campionato e forza insuperabili. Grazie. Bravissimo! L'allenamento sta per finire, continua la storia degli insuperabili. Questo è il calcio che amiamo.